incazzati, senza vedere. Ad alta voce. Piero Baldini legge Grandi speranze di Charles Dickens. Con il cuore che batteva come un fabbro contro la solida spalla di Joe, cercavo ovunque un segno dei forzati, senza vederne, senza udirne alcuno. Più volte il signor Upsley, con il suo respiro affannoso, mi aveva messo in allarme, ma ormai avevo imparato a riconoscerne il suono e riuscivo a dissociarlo dall'obiettivo del nostro inseguimento. Trasalii paurosamente quando mi parve di sentire la lima ancora in funzione, ma non era che la campanella di una pecora. I soldati continuavano ad avanzare in direzione della vecchia batteria e noi avanzavamo a poca distanza dietro ad essi quando ci arrestammo tutti di colpo. Sulle ali del vento e della pioggia un lungo grido ci era giunto. Si ripeté lontano verso est, ma lungo e forte. Anzi, sembrava che due o tre gridi si levassero insieme, a giudicare dai suoni confusi. Il sergente, un tipo deciso, ordinò di non rispondere al grido, ma mutare direzione e di procedere nella nuova passi di corsa. Così svoltammo a destra, ossia verso levante, e Joe si lanciò con passo così energico che dovevo tenermi forte per rimanere a cavalcioni. Fu una vera corsa, e come Joe la definì nelle sole due parole che pronunciò in tutto quel tempo, una bellezza. Su e giù per le rive, superando staccionate, diguazzando nei fossi, finendo fra cespugli spinosi. Nessuno badava a dove mettesse i piedi. Quando ci avvicinammo alle grida, apparve sempre più evidente che non si trattava di una voce sola. Talvolta le urla sembravano cessare del tutto, e allora i soldati si fermavano. Poi esse riprendevano, e i soldati procedevano in quella direzione ancora più svelti, e noi li seguivamo. In breve fummo tanto vicini da distinguere una voce che gridava «Assassino!» e un'altra «Forzati! Evasi! Guardie! Da questa parte! I forzati evasi!» Poi tutte e due le voci sembravano soffocate in una lotta corpo a corpo e poi di nuovo riprendevano. Ed allora i soldati correvano come cervi e Joe appresso a loro. Il sergente fu il primo a lanciarsi non appena ci trovammo proprio vicino alle voci e due dei suoi uomini gli tennero subito dietro. I loro fucili erano già puntati quando arrivammo pure noi. «Eccoli qui, tutti e due!» esclamò ansante il sergente che stava lottando sul fondo di un fossato. «Arrendetevi voi due! Che il diavolo vi porti, bestie selvagge! Separatevi!» L'acqua schizzava da ogni parte. Il fango volava alto, si sentiva un miscuglio di imprecazioni e colpi quando altri uomini scesero nel fossato a dare aiuto al sergente e trascinarono fuori, separatamente, il mio forzato e quell'altro, ambedue sanguinanti, ansimanti, che ancora si dibattevano bestemmiando. Naturalmente io li riconobbi immediatamente. «Ricordate!» disse il mio forzato ripulendosi il volto macchiato di sangue con le maniche a brandelli e scuotendo le dita per far cadere alcune ciocche di capelli strappati. «Sono io che l'ho preso! Io ve lo consegno! Ricordatevelo!» «Non c'è di che vantarsene, sai!» ribatté il sergente. «Non ne ricaverai molto, dato che sei anche tu nella stessa situazione! Su le manette!» «Non mi aspetto di ricavarne nulla! Non voglio ricavarne più di quanto ne ricavo ora!» affermò il mio forzato con una gran risata soddisfatta. «L'ho preso io! E lui lo sa! Questo mi basta!» L'altro forzato appariva livido ed oltre al lato sinistro del volto sfregiato da vecchia data sembrava tutto quanto ammaccato e ferito. Non riuscì neppure a riprendere fiato per parlare finché ambedue non furono ammanettati separatamente e si appoggiava ad un soldato per non cadere. «Sappiatelo, guardie, ha cercato di ammazzarmi!» furono le sue prime parole. «Cercato di ammazzarlo?» disse sprezzante il mio forzato. «Cercato senza riuscirvi? L'ho preso e l'ho consegnato! Ecco quello che ho fatto! Non solo ho impedito che scappasse via da questa palude, ma l'ho trascinato qui. L'ho trascinato fin qui, sulla via del ritorno. È un gentiluomo, se si vuole, questo farabutto. Ora la prigione riavrà il suo gentiluomo per merito mio. Ammazzarlo valeva proprio la pena, quando potevo fare di peggio e riportarlo indietro a forza. L'altro ripeté boccheggiante: ah, ha cercato di ammazzarmi. Siatene testimoni. Badate bene, disse il mio forzato al sergente, da solo me la sono svignata dalla nave prigione. Me la sono cavata con un colpo di audacia e ce l'ho fatta. Avrei potuto liberarmi anche di questi aggeggi freddi come la morte. Guardate la mia gamba. Non ci troverete più molto ferro. Se non avessi scoperto che lui era qui! Lasciare lui libero! Lasciare che lui approfittasse di quegli espedienti che avevo scoperto io! Lasciare che lui si servisse una volta ancora di me come uno strumento! Una volta ancora! No, no e poi no! Se fossi morto lì sul fondo, e fece un ampio gesto enfatico verso il fossato, con le mani ammanettate, me lo sarei tenuto così stretto che non avreste potuto non trovarlo in quella morsa. L'altro evaso, visibilmente sconvolto dal terrore che gli ispirava il suo compagno, ripeté: sarei morto se non foste sopraggiunti. Mente! Disse il mio forzato con estrema energia. È nato mentitore e morrà mentitore. Guardatelo in viso. Non lo si vede scritto? Volga quei suoi occhi verso di me. Lo sfido a farlo. L'altro, sforzandosi di sorridere sprezzante, senza riuscire però a dare alla smorfia nervosa della sua bocca un'espressione decisa, guardò i soldati. Poi si guardò tutt'attorno la palude e il cielo. Ma certamente non guardò colui che aveva parlato. Lo vedete? Proseguì il mio forzato. Vedete che mascalzone, eh? Vedete quegli occhi abietti e incerti? Mantenne quel contegno quando fummo processati insieme. Non mi guardò mai. L'altro, continuando a muovere le labbra aride e girando lo sguardo irrequieto attorno a sé, vicino e lontano, li volse alla fine per un attimo verso colui che parlava, dicendo: non sei granché da vedere, con un'occhiatina ironica alle mani ammanettate. A questo punto il mio forzato fu preso da un tale parossismo di furore che si sarebbe precipitato contro di lui se non fossero intervenuti i soldati. «Non vi ho detto», disse allora l'altro forzato, «che mi avrebbe ucciso se appena poteva!» E tremava di paura mentre sulle sue labbra apparivano strane macchie bianche, come esili fiocchi di neve. «Basta con queste chiacchiere!» disse il sergente. «Accendete le torce!» Mentre uno dei soldati, che recava un cesto invece di un fucile, si inginocchiava per aprirlo, per la prima volta il mio forzato si guardò attorno e mi scorse. Giunti sull'orlo del fossato, ero sceso dalle spalle di Joe e non mi ero più mosso di lì. Lo guardai intento quando egli mi guardò, mossi appena le mani e crollai il capo. Da tempo aspettavo che mi notasse per cercare di assicurarlo della mia innocenza. Non riuscii a capire se egli avesse compreso la mia intenzione, perché mi gettò uno sguardo che non potei interpretare, e fu la cosa di un istante. Ma se egli mi avesse guardato per un'ora o per un giorno intero, non avrei potuto in seguito ricordare più fedelmente il suo volto. Tanta era l'attenzione che esprimeva. Poco dopo il soldato con il cesto fece sprizzare la fiamma, accese 3 o 4 torce, ne prese una e distribuì le altre. Prima era stato quasi buio, ma ora sembrava buio del tutto, e in breve l'oscurità fu completa. Prima che lasciassimo quel luogo, 4 soldati disposti a cerchio spararono 2 volte in aria. Subito vedemmo altre torce accendersi a poca distanza dietro di noi, ed altre nella palude, sulla riva opposta del fiume. «Bene!» disse il sergente. «In marcia!» Non avevamo fatto un gran tratto quando 3 colpi di cannone vennero sparati dinanzi a noi, con un suono che sembrò spezzarmi qualcosa nell'orecchio. «Siete attesi a bordo?» disse il sergente al mio forzato. «Sanno che state arrivando. E tu non ribellarti. Stammi vicino». Dopo circa un'ora di marcia, giungemmo ad una rozza capanna di legno e ad un pontile da sbarco. Nella capanna v'era un corpo di guardia che chiese la parola d'ordine e il sergente la diede. Poi entrammo anche noi nella baracca, dove l'odore del tabacco si mescolava con quello della calcina e scoppiettava un bel fuoco. Il sergente fece una specie di rapporto, scrisse qualcosa in un registro e poi il forzato, che io chiamavo l'altro, fu portato via dalla sua guardia perché rientrasse a bordo per primo. Il mio forzato non mi guardò mai, se non quell'unica volta. Mentre eravamo nella capanna, rimase in piedi, dinanzi al fuoco, fissandolo pensieroso, mettendo sul parafuoco ora l'uno ora l'altro piede e guardandoli meditabondo, come se ne avesse compassione per le loro recenti avventure. Improvvisamente si volse verso il sergente e dichiarò: «Vorrei dire qualcosa su questa evasione, per impedire che altre persone siano sospettate insieme a me». «Puoi dire quello che vuoi», replicò il sergente ritto in piedi, le braccia conserte, guardandolo freddamente. «Ma non hai nessun bisogno di dirlo qui. Avrai ampia possibilità di parlarne e di sentirne parlare prima di aver finito, lo sai». «Lo so, ma questa è un'altra questione, una cosa separata. Un uomo non può stare senza mangiare, perlomeno io non posso. Presi del cibo in quel villaggio laggiù, dove c'è una chiesa, quasi fuori dalla palude». «Vuol dire che l'hai rubato?» chiese il sergente. «E vi dirò anche dove l'ho preso. Dal fabbro». «Guarda un po'», disse il sergente fissando Joe. «Guarda un po'», disse Joe fissando me. «Erano degli avanzi di cibo. Ecco quello che erano, un po' di liquore e un pasticcio». «Per caso vi è venuto a mancare un pasticcio, fabbro?» chiese il sergente in tono confidenziale. «Mia moglie se n'era accorta proprio nel momento in cui siete entrato. È vero, Pip?» «Così?» disse il forzato puntando gli occhi su Joe con aria triste e senza guardarmi affatto. «Così siete voi il fabbro. Allora sono spiacente di dirvi che ho mangiato il vostro pasticcio». «Dio sa che ne ho piacere. Almeno per quanto mi riguarda», aggiunse Joe con prudente reticenza, ricordando sua moglie. «Non sappiamo quello che avete fatto, ma non vorremmo che per questo aveste dovuto morire di fame, povera creatura. Vero, Pip?» Quello strano rumore che avevo notato prima come di uno schiocco di nuovo risuonò nella gola dell'uomo ed egli ci voltò le spalle. La barca era tornata. La sua guardia era pronta. Così lo seguimmo fino all'imbarcatoio fatto di rozzi pali e di pietre. Vedemmo che lo mettevano sulla barca, i cui vogatori erano dei forzati come lui. Nessuno parve sorpreso di vederlo, o felice di vederlo, o spiacente di vederlo. Nessuno pronunziò una sola parola, ad eccezione di qualcuno che nella barca ringhiò come se parlasse a un cane: «Ma noi remi!» Il segnale di immergere i remi nell'acqua. Alla luce delle torce vedemmo una nera nave prigione all'ancora, poco oltre la spiaggia fangosa, simile ad una sinistra arca di Noè. Rinchiusa, sbarrata e ormeggiata da massicce catene rugginose, quella prigione, ai miei occhi infantili, pareva in ceppi, al pari dei prigionieri. Vedemmo la barca accostare, il forzato tratto a bordo sparire. Poi le estremità delle torce volarono, sibilando, nell'acqua, e si spensero, come se tutto fosse finito per lui. Il mio stato d'animo nei riguardi del furto da cui ero stato discolpato in modo tanto inatteso non mi spinse ad una confessione sincera, ma le ragioni del mio silenzio non erano, così mi dicevo, tutte cattive. Non rammento di aver provato nessun rimorso nei confronti di mia sorella quando mi trovai liberato dal timore di essere scoperto, ma volevo bene a Joe, soprattutto perché quel caro uomo mi permetteva di volergli bene. E nei suoi riguardi la mia coscienza non si placò tanto facilmente. Avevo sempre in animo, soprattutto quando lo vidi cercare la sua lima, di dirgli tutta quanta la verità. Pure non lo feci, e per ragione che temevo di essere giudicato da lui, peggiore di quanto fossi. La paura di perdere la fiducia di Joe, di dover in avvenire starmene seduto la sera nell'angolo del focolare, guardando tristemente il mio compagno ed amico perduto per sempre, mi tenne la lingua legata. Con morbosa precisione mi figurai che se Joe lo avesse saputo, Non avrei mai più potuto vederlo accanto al fuoco, intento a tastarsi le bionde fedine, senza supporre che egli ci stava rimuginando. Che se Joe lo avesse saputo, non avrei mai più potuto vedere i suoi occhi posarsi, sia pure casualmente, sulla carne o sul budino del giorno prima, nel momento in cui venivano portati in tavola, senza pensare che egli si stava chiedendo se io ero entrato nella dispensa. In una parola, ero troppo vigliacco per fare ciò che sapevo essere il bene, così come ero stato troppo vigliacco per evitare di fare ciò che sapevo essere il male. A quel tempo non avevo nessuna esperienza del mondo, e nell'agire in tal modo non imitai nessuno dei suoi molti abitanti che si comportano così. Genio precoce, scopersi da solo la linea di condotta da seguire. Poiché cascavo dal sonno prima che ci fossimo allontanati di molto dalla nave prigione, Joe mi riprese sulle spalle e mi portò fino a casa. La marcia dovette essere non poco stancante. Il signor Upsl, completamente esausto, era di un tale cattivo umore che se la chiesa fosse stata un campo aperto avrebbe probabilmente scomunicato l'intera spedizione, a cominciare da Joe e da me stesso. Nella sua qualità di laico si ostinò stupidamente a riposare sedendo sull'erba fradicia. Frattanto io barcollavo come un ubriaco sul pavimento della cucina, perché mi avevano appena rimesso in piedi, perché avevo dormito profondamente e perché mi ero ridestato in un'atmosfera piena di luce, calore e chiacchiere. Quando tornai in me, grazie a una forte manata tra le spalle e all'esclamazione vivificante di mia sorella, «Si è mai visto un ragazzo come questo?» Joe stava raccontando la confessione del forzato, e tutti i presenti facevano le ipotesi più disparate su come egli fosse penetrato nella dispensa. Pumblechook, dopo aver ispezionato accuratamente i locali, dimostrò che l'uomo era dapprima salito sul tetto della fucina. Da lì era passato su quello della casa e si è separato a circolare lungo il camino della cucina mediante una corda fatta di un lenzuolo tagliato a strisce. E poiché Pumblechook era un tipo autoritario, possessore di un proprio veicolo, ciò che lo rendeva superiore a tutti gli altri, si convenne che doveva essere stato così. In verità, Upsl gridò freneticamente «No!» con la fievole ostilità di un uomo stanco. Ma poiché egli non aveva nessuna teoria da proporre e non indossava la giacca, fu ignorato da tutti, per non parlare del vapore intenso che saliva dal suo posteriore mentre egli se ne stava con le spalle voltate al focolare della cucina per farne uscire l'umidità, cosa non certo fatta per ispirare fiducia. Fu tutto quanto riuscii a sentire quella sera prima che mia sorella mi afferrasse come una sonnacchiosa turpitudine offensiva per tutta la compagnia, e mi aiutasse a salire di sopra con una mano così dura che mi parve di avere 50 scarpe ai piedi che picchiassero tutte contro gli spigoli dei gradini. Il mio stato d'animo, quale l'ho descritto, ebbe inizio prima che mi alzassi al mattino seguente. Esso durò per lungo tempo, quando ormai l'argomento era stato esaurito e non veniva più menzionato altro che in occasioni straordinarie.